Il mito. Attenzione, ladies and gentlemen, perché qua c'è Mark Knopfler. Fermi tutti, live su Radio 2, in diretta da Lucca Summer Festival, vestito con una giacca con la bandiera inglese, se non erro. Ora, appena la luce arriverà sul palco, ve lo confermerò. Live, Mark Knopfler. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. What it is now. Frost on the graves and the monuments, the town is warm and it's been. People curse the government, shove all our food down. Lights around in City Hall, the castle of the key. Moon shines down upon it all. Songs in the way we are. Take a walking stick from my tail. The ghost of Dirty Dick is still in search of me now. It's what it is. What it is for me. duro inizio per Mark Knopfler con questa What It Is. Da Sailing to Philadelphia era il 2000, il suo secondo album solista, dalle atmosfere molto scottish, molto scozzesi e irlandesi. In diretta Mark Knopfler su Radio 2 dal Lucca Summer Festival. Quel Privacy Ring di cui abbiamo parlato poc'anzi, il doppio disco del ritorno alle origini folk, country, l'ottimo Mark Knopfler in diretta su Radio 2. Questa era Coral Bay City. Tranquillamente si tira sulle maniche. Oh, yeah. E saluta il pubblico beautiful di Lucca. Bello, bello essere qua in questa città, in questa piazza. Okay. Well, non ha la camicia con la maglietta, con la bandiera britannica. Eh? E cosa facciamo stasera, dice Knopfler? So we just have such a good time playing on this tour. Dice ci siamo divertiti talmente tanto in questo tour. E poi tornare qui a Lucca è semplicemente bello. Quindi si divertirà, immaginiamo, anche questa sera. L'ultima data del tour. Okay, Rich. You and me, baby, we'll start it and then hope for the best, okay? Parla con uno della sua band, Rich. Diamo il meglio di noi questa sera su Radio 2 anche. Mark Knopfler. Trim shall I to every man a lucky hand, every man a prize. I live to ride the ocean, the mighty world. Take a little plunder and hear the cannon sound. Lay with pretty women to drink medieval wine. Hear the roll of thunder on the shore. I'm no flogging captain, and by God I sailed with smoke. Come with me to Barbary, we'll ply the panda. Not quite exactly in the service of the crown. Lay with pretty women to drink Madeira wine. Hear the roll of thunder on the shore that is in my private. Privateer, she's small, but she can sting. A license to take prizes with a letter from the king. I love the streets and taverns of a pretty farming town. I tip my hat to the dark-eyed ladies as we sally up and down. Lay with pretty women to drink the evil wine. To hear the roll of thunder. We'll be right back. Tanya needs her privateers each time she goes to war. The death to all her enemies, but the prizes matter more. Come with me to Barbary, we'll plod up and down. Not quite exactly in the service of the crown. Lay with pretty women, do drink, but you know. Hear the roll of thunder on the shore that isn't mine. Privateer. Splendida band, Mark Knopfler live su Radio 2 per il Luca Summer Festival. Questo è il brano che dà il titolo al suo ultimo album, un album che ha bisogno di tutti gli strumenti della tradizione, quindi il flauto traverso, il violino, la fisarmonica. Ancora con noi Mark Knopfler e la sua band in diretta. Thank you. gun in the town, love, for what I need. Trade for the ripsaw killer for the weed. The dogs in the back door, leaving me. No feeding jack, no wait up for me. Gun in the town, love, for the 12 and razor wire. Dogs at the back door, leaving me. Oh, the jack, don't wait up. So bad, so Mark Knopfler live su Radio 2 da Lucca Summer Festival, prima lo strumentale Father and Son che era contenuto nella colonna sonora di un film che si chiamava Cal a metà degli anni 80, prodotto dallo stesso produttore che poi produsse Local Hero, un'altra colonna sonora importante, forse ancora più importante di Mark Knopfler, e poi questa Hill Farmer's Blues dal terzo disco solista di Mark Knopfler, con questi grandi momenti di chitarra ancora live su Radio 2. Like that. Is that okay? Are you sure? Okay. chasing after little in the line. I don't do it no more, but I used to cook. Il nostro Mark Knopfler, che vi avviso per ogni brano fino ad ora eseguito ha cambiato chitarra, se non le cambia lui, tutte Fender e Gibson fino ad ora, Fender Stratocaster, Fender Telecaster, e ora non lo so perché c'è il buio sul palco, quindi cerchiamo di guardare, di capire che cosa sta combinando, ma soprattutto qua magari si cominciano a riconoscere delle melodie piuttosto note, e allora sentiamole in diretta su Radio 2, Mark Knopfler. Different streets, both were streets of shame, both dirty and both mean, and the dream was just the same. I love you, baby, till I die. And there's a place for I can't do the talk like they talk on TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I'll do everything, but I'll do anything for you. And I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you. All I do is keep the beat in the rock and roll company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you, baby. The stars above. Oh, I love you, baby, till I die. And there's a place for us, you know, on the movie song. When you gonna realize it was just a time before. Laying everybody low with a love song that he made. He finds a streetlight. He steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe. How about?" Ancora più intima, se possibile, di Romeo and Juliet, il grande classico del 1980 dei Dire Straits, prima parte con il dobro, resto con l'elettrica normale dell'ottimo Mark Knopfler, protagonista di questo concerto non gridato ma incredibilmente sensibile, che ti arriva sotto la pelle. Romeo e Juliet non poteva non esserci, insomma, un pezzo così importante della carriera di questo grandissimo cantante, autore e chitarrista, che di nuovo fa il change of guitar e di nuovo saluta Lucca per poi intonare la sua chitarra. Farm. Sonny was the second to the last one born. Mama ran away and his daddy beat him bad. And he grew up wild, good love he never had. He had a left like Henry's hammer, a white like Benny Bambalat. Rolled away the muggers in the dark and dread, and all of them sluggers went down like lead. Well, they hung with their hoods, he wouldn't stroke of the fang. But he dynamite in both of his hands. Slam a door. The bell in the can and the bodies on the floor. Beware, the bear's in town. Somebody money said the bear's going down. Yeah, the bear never smiled. Sonny going down for miles and miles. Sonny's going down for miles and miles. Didn't like him all the fight game jocks, with his low life and back his and his hands are like rocks. They didn't want to have a bogey man. They didn't like him and he didn't like them. Black Cadillac, alligator boot, money in the pockets of the sharkskin suits. Some say the bet took a flop. When he saw him to rob, he had the left like Henry's hammer, and the right like Betty Bambalat. Rolled away the muggers in the dark and dread, and all of them sluggers went down. Joe Louis was his hero, well he tried to be the same. Criminal child who wears a ball and chain. Civil rights people didn't want him on the throne. The hacks and the cops, they wouldn't leave him alone. If he were, was the bears in town. Somebody muttered, the bears going down. Yeah, the bear never smiled. Sonny going down for miles and miles. There's dope in his veins and a pistol on the door. One no investigation aside. He hated needles, but he knew too much. He would crisscross on his back. Scars from a daddy like a slavery trap. The second last child was the second last king. Never again was he the same. The head of his hammer, and a writer like a Benny Bambalat. Rolled away the muggers in the dark and dread, and all of them suckers went down. be sure about the day he was born. A motherless child working on the farm. Nobody could be sure about the day he died. The bear was a king they cast aside to beware. Cause the bear's in town, somebody's money says the bear's going down. And the bear never smiles, sun is going down for miles and miles. Sun is going down for miles and miles. Della canzone dedicata a Sonny Liston da Mark Knopfler, questo pugile che fu protagonista dell'epoca d'oro della box, fu il primo grande avversario di Muhammad Ali e che insomma ebbe anche vita breve, per cui entrò anche facilmente nel mito, fino a suggestionare lo stesso Knopfler che ha deciso di farci una canzone sopra. It's my honor to play with. They are the best in the world. I migliori musicisti nel mondo. Il batterista che viene salutato da Mark Knopfler e chiama l'applauso su di lui. Richard Bennett. Il chitarrista alla sinistra di Knopfler. Another magician behind him. He's been in my life since 83. Guy Fletcher. And you've heard this guy play already, a genius of the keyboards, Jim Cox. Master bass guitarist, master on the upright bass. What can you say? He's the best that there is. Glenn Moore. Tutti i musicisti vengono salutati come i migliori in assoluto nel proprio strumento, anche il bassista della band di Knopfler. And the two best in the world here as well, John McCusker, Mike McGoldrick. E poi i polistrumentisti, quelli che danno il tocco molto irlandese e scozzese a tutto. Flautista, John McCusker. One thing was leading to the next, a bit of a more than I can chew. I had the power to sign checks. It wasn't difficult to do. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards. Big mountain of dough. So it's goodbye, compañero. And cheerio, I couldn't stay and face the muse. So many reasons why I won't be sending postcards. meant to be a cheetah. There was blood on the wall. See, I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stay and face the music. There's so many reasons why I won't be sending postcards. Sorride pacioso l'ottimo Mark Knopfler dal palco del Lucca Summer Festival dopo questa Postcards from Paradise, from Paraguay, non dal paradiso ma dal Paraguay, un'altra canzone tratta da quel disco di metà anni 90 che si intitolava Shangri-La, lo stesso dove era contenuta la canzone, il blues per Sonny Liston. E adesso ancora si va indietro nel tempo, ancora ai dischi solisti dell'ex leader dei Dire Straits, ancora in diretta su Radio 2 dal Lucca Summer Festival. The boneyard is the best. There was a bad bull on the railroad, tried to put me over straight. A bad bull on the railroad, tried to put me over straight. Lay me down in Marble Town. Don't rain. Still here, I'm hollering. me down in a marble town. Cause a boneyard is a bed. Lay me down in a marble town. Boneyard is the best. Oh, Uno straordinario brano eseguito in maniera incredibile dalla band di Mark Knopfler, con questo interplay tra i flauti di Michael McGoldrick, il violino di John McCusker, veramente grandissimi musicisti, il contrabbasso chiaramente di Glenn Worth. Il concerto prosegue sempre in diretta su Radio 2, Mark Knopfler e il suo Privateering Tour. Battlefields we fought them all. Zoom Phoenix in the morning, I had a wake up call. She went around without a warning, put me in the wall. I drove Long Beach, California with three crackers in my hand. We went on the Indianapolis in the God's there to crucify anyone who will not learn. And I climbed a mountain to qualify, went flat through the turns. But I was down in the miter bins, and an old pal could have died. And I sat down in gasoline at 8 and I cried. On the Milwaukee Mile, and in June up in Michigan we were out that bell. And it was on the Portland, Oregon for the GI Joe. And it blown off almost everyone when the motor let go. New England, Terry O'E died in the dirt. Those walls of Mid Ohio to Toronto. Where we burned up at the lake, but Speedway and Nazareth, I made no mistake. molto amato dal pubblico appassionato di Mark Knopfler, questa Speedway at Nazareth, che nella versione live è veramente dà il meglio di sé con questo assolone bellissimo finale. Speedway, Nazareth Speedway è una pista per corse automobilistiche in Pennsylvania. Lui, Knopfler, adora le macchine di grossa cilindrata, ne ha moltissime, quindi si è ispirato ovviamente a questa sua passione. Di nuovo il flauto di Michael McGoldrick per introdurre il prossimo brano in diretta su Radio 2, lo straordinario concerto di Mark Knopfler dal Lucca Summer Festival. Walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the west. Built a cabin and a winter store, and he plowed the ground by the cold lake shore. The other travelers came walking down the track, and they never went further. They never went back. Then came the schools, then came the lawyer, then came the rooms, then came the trains and the trucks with their load. Dirty old track was the telegraph. Telegraphs sang a song about the world outside. The telegraph room was so deep, so wide, rolling river. Gonna freeze. People driving home from the factories. Now you've got six lanes of traffic. Three lanes moving slow. But I used to like to go to work. They shut it down. Got a right to go to work. No work here to be found. Yeah, they say we're gonna have to pay what's owed. We're gonna reap from a seed that got sown. tutto il pubblico in piedi ad applaudire furiosamente e felicemente Mark Knopfler e la sua straordinaria band per questa versione di nuovo splendida di un pezzo storico, Telegraph Road, capolavoro dei Dire Straits, primi anni 80, Love Over Gold, il disco del 1982, un pezzo incredibile della durata di oltre 14 minuti già sul disco, un pezzo che chiaramente le radio difficilmente trasmettono, hanno trasmesso anche quando i Dire Straits sono stati al massimo della loro importanza, della loro celebrità. Però proprio per questo motivo un brano, e per mille altri motivi, un brano amatissimo da parte dei fan di questa incredibile band. La Telegraph Road, questa strada statale americana, una strada lunga 70 miglia in Michigan, che ispirò a Mark Knopfler questo bellissimo racconto che poi è la storia di un pezzo d'America, la storia di delle persone, della gente, della disoccupazione, del capitalismo, delle ingiustizie sociali. Ci sono tantissime tematiche all'interno di questa canzone e poi chiaramente c'è una struttura musicale incredibile che avvicina questa parte della carriera dei Dire Straits alla musica progressive, perché è una suite grandiosa divisa in varie parti, in vari momenti che danno sensazioni completamente diverse, e questo a solo finale pazzesco di 5 minuti e oltre a conclusione di questo pezzo incredibile che giustamente chiude, o almeno pare chiudere, il concerto di Mark Knopfler che vi stiamo trasmettendo straordinariamente in diretta su Radio 2 da questa bellissima edizione del Lucca Summer Festival. Ma non chiude questa canzone, perché chiaramente il pubblico a gran voce richiama tutta quanta la band sul palco, richiama Mark Knopfler sul palco, perché non può andarsene così anche se ci ha regalato Telegraph Road. Non può, deve fare qualcos'altro, imbracciare per l'ennesima volta la chitarra e via in diretta su Radio 2. Knopfler per concordare con il proprio batterista la chiusura di So Far Away, che arriva giustamente con i saluti del grande Knopfler. E di tutta la sua incredibile band, di Michael McGoldrick ai fiati, di Glenn Worf al contrabbasso, di Guy Fletcher, che è l'unico, assieme a Knopfler, ad aver militato all'interno dei Dire Straits, e poi Richard Bennett alla chitarra, John McCusker al violino e Ian Thomas alla batteria, un omone gigantesco, potentissimo. Knopfler si affaccia, guarda il pubblico, cerca di schivare la luce dei riflettori che gli si sta piantando addosso, saluta tutto quanto il pubblico del Lucca Summer Festival, che non ci sta chiaramente a salutarli, e poi mostra al pubblico questi signori della band che ogni volta riescono a ripetere il miracolo, perché è vero che c'è la chitarra di Knopfler, ma ci sono anche loro. Batterista ora chiede al pubblico: che dite, facciamo qualcos'altro? Chiama l'applauso, e allora sì, di nuovo le luci forse si abbassano sul palco di Lucca, di Mark Knopfler, e ci sarà qualcos'altro per noi dopo il bis di So Far Away, perché ne vogliamo ancora, non è finita qua. Sempre su Radio 2, in diretta da Lucca Summer Festival, l'ultima tappa del tour di Knopfler. chiudere con questo strumentale che sta un po' a ricordare, come è stato prima per Father and Son, anche tutta la grande carriera di autore di colonne sonore di Mark Knopfler, perché così si è diviso prima e dopo Dire Straits, con la sua carriera solista, il suo amore per il folk, il country che abbiamo raccontato e che lui stesso ha suonato questa sera dal Lucca Summer Festival, e l'amore per le colonne sonore, per il quale, questa si trattava di Local Hero, addirittura la storia vuole, gli aneddoti vogliono che lui chiamò, volle incontrare in qualche modo niente meno che il suo idolo Ennio Morricone per farsi dare dei consigli riguardo a come si fanno certe colonne sonore, e qualcosa di morriconiano c'era dentro Local Hero, tutto quanto il fischio, diciamo così, iniziale. Questa è la chiusura del live di Mark Knopfler, e proprio in chiusura tutto quanto il pubblico che sostava di fuori di Piazza Napoleone a Lucca è stato fatto entrare, vedo persone di ogni età, e probabilmente anche provenienza, visto la Lucca cosmopolita che stiamo vivendo in questi giorni, che si sta precipitando nella speranza, chissà se speranza ben riposta, di vedere un ulteriore bis di questo bellissimo concerto che ormai, insomma, va avanti da quasi un paio d'ore, un'ora e 40 minuti, qualcosa del genere, forse qualcosina in più, e che ha visto, insomma, Mark Knopfler e la sua super band toccare un po' tutti quanti gli ambiti, i momenti della sua carriera, dal secondo disco solista, il terzo, Rag Picker's Dream, e poi, insomma, i grandi capolavori, Telegraph Road, una immancabile Romeo and Juliet che sta effettivamente facendo quasi sempre nelle tappe di questo lungo tour, l'ha fatta anche nelle date italiane, non ricordo se in tutte, ma sicuramente nella maggior parte l'ha fatta, e poi appunto le colonne sonore e l'inizio dedicato moltissimo al suo nuovo album, d'altronde un doppio album, a dimostrazione di come Mark Knopfler sia pieno ancora di ispirazione e di voglia di fare nuova musica, anche se è una musica che affonda le radici nel passato, in molti casi il passato del grande country, del grande folk, e quindi ci sono state delle canzoni estratte da Privateering, che anche la title track, che è appunto l'ultimo disco con il quale Mark Knopfler ci ha accompagnato negli ultimi tempi, è uscito praticamente ora, insomma, diversi mesi fa, oramai alla fine del 2012. Niente, non rientra, nonostante la speranza delle tante persone che si sono accalcate sotto il palco del Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone, ma bisogna dire che in ogni caso ci ha fatto stare molto bene in queste due ore Mark Knopfler, che ringraziamo così come ringraziamo tutto il Lucca Summer Festival, dal quale continuiamo a trasmettere domani Moby Dick nel pomeriggio. Quindi...